GR24, il sole 24 ore. Non c'è soluzione facile e veloce per questa crisi, avverte la cancelliera Merkel alla vigilia dell'atteso vertice europeo. Land offre il suo pieno appoggio politico a Monti. Procede a colpi di fiducia il voto alla Camera del DDL Lavoro, atteso oggi il via libera definitivo, protesta la CGIL. Nel Bresciano forza, un passaggio a livello e resta incastrato col camion, un treno lo travolge, una quindicina i feriti, grave la macchinista. Storica stretta di mano a Belfast fra la regina Elisabetta e l'ex comandante dell'IRA McGuinness. Buona giornata dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. Borse nervose, lo sentiremo fra pochissimo in attesa del vertice europeo di domani a Bruxelles. Oggi a Parigi Angela Merkel incontrerà François Hollande e sempre stasera teleconferenza ministri europei. Ma già stamattina non sono mancate le dichiarazioni preoccupate dei leader del vecchio continente. In diretta con noi Valeria De Rosa. Buongiorno Piera, a te i nostri ascoltatori. Questa mattina hanno parlato un po' tutti, allora cominciamo dalla cancelliera Merkel, perché questa mattina il Bundestag ha ratificato il fondo salva stati, l'ESM. Allora, parlando al Parlamento, la cancelliera ha ripetuto un concetto più volte espresso, e cioè che non esiste alcuna soluzione facile e veloce a questa crisi e che soprattutto gli eurobond sono la strada sbagliata. La Merkel ha parlato anche della Spagna, che in questo momento è quella che ha la situazione peggiore, affermando che appunto la situazione spagnola dimostra che serve una sorveglianza delle banche, e poi ha avuto parole di sostegno per l'Italia, che con Mario Monti ha affrontato un percorso di solidità e di crescita. Lo dicevamo, non ha parlato solo la Merkel, si è fatto sentire anche l'Eliseo attraverso una fonte interna, e lo ricordiamo, questa sera Hollande e la Merkel si incontrano in un vertice pre-consiglio. L'Eliseo fa sapere che l'Italia ha il pieno appoggio politico della Francia e che il presidente Hollande aiuterà Monti sulle soluzioni per uscire dalla crisi, inclusa quell'ipotesi di utilizzare il fondo salva stati europeo per stabilizzare gli spread a favore dei paesi più virtuosi. Questa sarebbe una delle mosse che l'Europa dovrebbe avere già effettuato, e quindi una carta da giocare lunedì quando riapriranno i mercati dopo il vertice europeo. Questa mattina aveva parlato anche Van Rompuy, il Presidente del Consiglio europeo, che nell'invito ufficiale ha scritto: dobbiamo far capire che stiamo facendo tutto il possibile, quindi un altro messaggio per i mercati. Sicuramente queste ore pre-vertice non sono facilissime. Questa mattina il Premier spagnolo Rajoy, parlando in Parlamento, ha detto: sarà molto difficile finanziarsi e sarà ancora peggio se non inviamo un chiaro segnale che prendiamo sul serio il risanamento delle finanze pubbliche e la riduzione del deficit. Sicuramente quello che si apre è un vertice europeo molto difficile, che ha sul tavolo molti argomenti, a partire dai 130 miliardi per spingere l'economia, a tutta quella serie di misure che saranno necessarie da qui in avanti per sostenere la moneta unica e non solo. Sì. Grazie a Valeria De Rosa. Sentiamo dunque come vanno questa mattina le borse in attesa di questo benedetto vertice europeo. Deborah. C'è molto nervosismo, buongiorno a tutti. Allora, le borse erano partite bene, poi hanno annullato i loro guadagni, adesso tornano a risalire. Milano guadagna un punto, Francoforte più 0,3, Parigi più 0,5, Londra più 0,5. Come vedete le prestazioni sono sì positive, ma non c'è grande entusiasmo, anzi prevale la prudenza fra gli investitori del vecchio continente. L'euro rimane sotto quota 1,25 rispetto al dollaro. Allora, le notizie del giorno riguardano soprattutto Milano. C'è stata l'asta BOT prevista per questa mattina. Il Tesoro italiano ha collocato i 9 miliardi previsti di titoli a 6 mesi, con i rendimenti che naturalmente anche in questo caso sono saliti al 2,96% dal 2,10% dell'ultima asta di maggio, i massimi dal dicembre scorso in termini di rendimenti. Ma questa, insomma, è una tendenza che già conosciamo, l'abbiamo vista clamorosamente ieri in Spagna. Lo spread fra BTP e Bund è sui 450 punti base. Due casi del giorno a Piazza Affari: Unicredit più 2%, entra nell'azionariato di Piazza Corduzzi il fondo britannico Pamplona con il 5%, quindi sempre più aperta agli stranieri questa banca italiana. E poi Monte dei Paschi, che sta presentando proprio in questi minuti alla stampa il suo piano industriale varato nelle ultime ore, titolo in rialzo dello 0,4% dopo essere partito con un progresso molto più forte, poi molto ridotto. Taglierà 4.600 posti di lavoro, 400 filiali entro il 2015, farà ricorso a nuovi Tremonti Bond. Ad ottobre nuova assemblea degli azionisti per un nuovo aumento di capitale. È tutto. Grazie a Deborah Rosciani e torneremo a parlare della vicenda Montepaschi fra poco nella seconda parte di GR 24. Ora invece facciamoci due risate, che ne abbiamo davvero bisogno, con Benigni. Fornero, diciamo così, la metterei a fare i conti di quanti ce n'è nell'inferno. Secondo l'INPS 380.000, secondo la Fornero un pochino quanti canti dell'inferno sono, secondo l'INPS 100, secondo la Fornero 10. E Monti dove lo vogliamo mettere? Ma Monti è da purgatorio, Monti sarebbe da paradiso per me, per carità, io lo stimo Monti, però il purgatorio è proprio un canto tecnico, hai capito? Dolce, dolcissimo, tecnico, educato per bene, e serve a riparare i guasti dell'inferno, così come Monti a riparare l'inferno che abbiamo creato, capito? Questo Benigni, ieri sera all'ultima puntata di Ballarò, l'avete sentito, il comico toscano ha parlato anche di lavoro e oggi il DDL Lavoro è alle sue battute finali. Atteso il voto definitivo, a colpi di fiducia, Andrea Viali. Sì, buongiorno, l'aula della Camera dei Deputati ha votato la quarta e ultima fiducia con la quale di fatto il governo ha blindato il testo della riforma che era uscito dal Senato. I sì sono stati 438, i no 75, 28 gli astenuti, il via libera definitivo, salvo sorprese, arriverà nel tardo pomeriggio. Come chiesto, Monti potrà quindi presentarsi al vertice europeo di domani con la riforma del mercato del lavoro approvata. L'importante è farla partire, poi se qualcosa può essere aggiustata lo faremo con l'appoggio dei partiti che sostengono il governo, ha ripetuto oggi il ministro del welfare Fornero, che si è rivolta in particolare al PDL, che chiede di allentare i vincoli sulla flessibilità in entrata, e al PD, che chiede invece di migliorare la parte sugli ammortizzatori sociali, ma anche di risolvere la questione esodati. D'accanto loro restano invece le critiche dei sindacati, parla di riforma dannosa la CGIL, che sta protestando oggi in tutta Italia, mentre secondo la CISL da questo provvedimento non arriverà il rilancio. Per ora da Montecitorio è tutto. Grazie ad Andrea Viali. Dunque seguiremo nel corso della giornata il procedere delle votazioni sul DDL Lavoro alla Camera. Cambiamo argomento, è arrivata stamani a Ciampino la salma del carabiniere scelto Manuele Brai, ucciso, lo ricorderete, in un attentato in Afghanistan. C'erano familiari ed autorità ad accogliere stamani l'arrivo del C-130 dell'aeronautica militare che riportava in patria la salma del carabiniere scelto Manuele Brai, ucciso in Afghanistan lunedì scorso. Il feretro, avvolto nel tricolore portato a spalla dai commilitoni del 13° Reggimento Friuli Venezia Giulia, ha ricevuto gli onori militari da un picchetto interforze e l'omaggio del presidente del Senato Renato Schifani e di quello della Camera Gianfranco Fini, oltre alla benedizione del cappellano militare Monsignor Ugo Borlenghi. Subito dopo un mesto corteo fino al carro funebre, poi la salma ha lasciato l'aeroporto diretta all'Istituto di Medicina Legale per l'autopsia. Composto il dolore dei familiari di Brai, sia quello della moglie, la 28enne Federica con in braccio il piccolo Manuel di 8 mesi, sia quello dei genitori, il papà Santo e la mamma Anna Maria, che sono assistiti da un team di psicologi dell'Arma dei Carabinieri. Insieme agli altri parenti si recheranno nel pomeriggio all'ospedale del Celio per la camera ardente. Infine alle 19 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli i solenni funerali di Stato alla presenza del Presidente della Repubblica Napolitano. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E il maresciallo capo Dario Cristinelli e il carabiniere scelto Emiliano Asta, gli altri due militari italiani rimasti feriti nello stesso attentato, sono fuori pericolo, ma restano per ora ricoverati all'ospedale americano di Bagram. Appena le loro condizioni lo consentiranno, verranno trasportati in Germania all'ospedale di Ramstein. Poco fa la storica stretta di mano fra la regina Elisabetta e l'ex comandante dell'IRA Martin McGuinness, oggi vice primo ministro dell'Ulster. Ci racconta tutto in diretta il corrispondente del Sole 24 Ore a Londra, Leonardo Maisano. Buongiorno Leonardo. Buongiorno a voi. Sì, è stato un incontro definito da Martin McGuinness molto simpatico, un incontro breve avvenuto a Belfast, al Teatro Lirico, dove c'era un evento legato alla visita della la regina in Irlanda del Nord. Si sono stretti brevemente la mano e Martin McGuinness, che lo ricordiamo, è stato il comandante della brigata di Londonderry dell'IRA, una delle più attive negli anni dei Troubles, cioè negli anni 70 e fino a metà degli anni 80, prima della sua, come dire, uscita dalla prima linea per entrare nella côté politico dell'organizzazione, cioè lo Sinn Féin. Bene, Martin McGuinness ha salutato la regina dicendole buongiorno e Dio la benedica in irlandese. Secondo te si può dire che con questo gesto simbolico sicuramente si chiude oggi una pagina davvero molto dolorosa, una pagina storica molto dolorosa? In un certo senso sì, è un'altra chiusura, cioè questa la vicenda nordirlandese ha avuto episodi di progressiva, come dire, uscita dal momento di massima tensione, dal conflitto, verso la pace per fasi, e questo è senz'altro un passaggio molto molto importante dal punto di vista simbolico. Infatti non è stato accolto con particolare soddisfazione soprattutto dal lato repubblicano, cioè da quello che sta insieme a Martin McGuinness. Grazie a Leonardo Maisano, corrispondente da Londra del Sole 24 Ore. Noi veniamo alla cronaca italiana. Un bambino di 3 mesi è stato trovato morto nel suo letto alla Spezia, se ne è accorto il padre, è rientrato in casa, la madre era in cucina e dice di non essersi accorta di nulla. In casa anche la sorellina di 2 anni, non si esclude al momento una morte in culla. E ci sono ancora molti punti da chiarire anche nella vicenda dell'undicenne morto ieri in Toscana durante una gita con l'oratorio. L'autopsia chiarirà se il bambino avesse dei problemi congeniti o se davvero il caldo, la stanchezza possano averne provocato la morte. Il padre dice: mio figlio era sano. Intanto è omicidio colposo l'ipotesi di reato su cui sta indagando la procura di Prato. E sono migliaia i bambini che in questo periodo di chiusura delle scuole vengono affidati agli oratori, che offrono una rete davvero molto capillare di centri estivi a buon prezzo. Allora, possono stare tranquilli i genitori, mandarli o no i bambini in queste strutture? La nostra Nicoletta Carbone questa mattina lo ha chiesto allo psicologo Francesco Aquilar. Possiamo senz'altro riflettere, naturalmente, al primo posto legittimando la loro preoccupazione di fronte ad una notizia del genere. E poi ovviamente è importante che i nostri figli siano lasciati liberi di esplorare in condizioni protette, sia sul piano sociale sia sul piano fisico, il mondo. Toccherebbe però naturalmente mantenere in qualche modo una relazione con loro, quindi io diffiderei di quei gruppi che impediscono ai bambini di contattare i genitori per criterio tra virgolette pedagogico, e contemporaneamente stare attenti a coloro che si occuperanno dei nostri figli, quindi mantenere un'attenzione e una vigilanza e se possibile anche una relazione personale. Per il resto è una situazione indispensabile nella vita dei nostri bambini, li aiuta a costruire relazioni sociali fin dalla prima infanzia e a esplorare il mondo in un contesto leggermente diverso dal tipo di protezione che possiamo dare in famiglia. Ammalata da 1 anno ma abbastanza in salute da tenere lezioni di aerobica nella palestra della madre. È la storia di un'impiegata comunale di Torino denunciata per truffa aggravata. L'indagine della Guardia di Finanza è partita dalla segnalazione del sindaco, insospettito dalle continue assenze dell'impiegata. Non c'è soluzione facile e veloce per questa crisi, avverte la cancelliera Merkel alla vigilia dell'atteso vertice europeo. Hollande offre il suo pieno appoggio politico a Monti. Procede a colpi di fiducia il voto alla Camera del DDL Lavoro, atteso oggi il via libera definitivo, protesta la CGIL. Storica stretta di mano a Belfast fra la regina Elisabetta e l'ex comandante dell'IRA McGuinness. Queste le notizie che abbiamo trattato nella prima parte di GR24. Ripartiamo invece in questa seconda parte da quanto successo nel Bresciano, dove un treno ha travolto un camion. Giuseppe Biesuz, direttore generale delle Ferrovie Nord, al microfono di Anna Marino. Le condizioni della nostra macchinista sono considerate a questo momento critiche. Non abbiamo ancora un bollettino ufficiale. Gli altri 2 nostri colleghi macchinisti sono praticamente illesi. Ci sono una 15 di clienti che hanno ricevuto cure a vario titolo. Signora che ha una gamba rotta, ma direi che le condizioni dei 15 clienti non sono preoccupanti. Ecco. La dinamica dell'incidente? Guardi, la dinamica dell'incidente è terrificante, è un caso classico di tallonamento di passaggio a livello. Un camion autoarticolato, quindi un camion molto pesante, ha attraversato il passaggio a livello mentre si chiudevano le sbarre, ed è stato verificato che tutti i segnali, tutta la segnaletica funzionava perfettamente, è rimasto incastrato tra le 2 sbarre ed è sopraggiunto il treno e c'è stato l'impatto, che ha rischiato di mettere a repentaglio la vita dei nostri colleghi e di 40 nostri clienti, una cosa che è assolutamente inaccettabile. Questa è una linea gestita da Ferrovie Nord, non da Rete Ferroviaria Italiana, ed è una linea sulla quale è stato fatto un progetto negli ultimi anni di investimento di 100 milioni di euro per la soppressione dei passaggi a livello. Sono stati soppressi 59 passaggi a livello, ce ne sono ancora una novantina, ma è stato fatto un grandissimo lavoro proprio per evitare queste situazioni. Scoperta dalla Direzione Investigativa Antimafia, un'organizzazione criminale che praticava a Milano usura e con i guadagni investiva in strutture sanitarie private. 4 gli uomini arrestati e presunti appartenenti all''ndrangheta. Concedevano prestiti a un imprenditore in crisi a tassi che raggiungevano anche picchi del 200% e giustificavano contabilmente le restituzioni con l'emissione di false fatture. Pestavano abitualmente l'usurato e minacciavano la sua famiglia, di cui conoscevano abitudini e spostamenti. I 4 uomini arrestati dalla DIA, come spiega il sostituto procuratore di Milano Mario Venditti, apparterrebbero alla criminalità organizzata calabrese. La vittima, un imprenditore milanese collaboratore di giustizia. L'indagine di oggi conferma proprio questo. La penetrazione nel mondo finanziario lombardo attraverso cavalli di Troia rappresentati appunto dal collaboratore Augusto Agostino, che era titolare della Mecol, che è stata praticamente fagocitata dagli esponenti delle cosche calabresi per realizzare una serie di affari, non ultimo quello della realizzazione in Lombardia di alcune RSA, che sono le residenze socio-assistenziali, che sono strutture di supporto agli ospedali. La particolarità di questa indagine è l'aver svelato i meccanismi con cui la criminalità organizzata penetra nell'economia lecita e si appropria di apparati produttivi. Oltre agli arresti sono stati sequestrati 8 immobili tra Bergamo e Milano e una società. Giorgia Mennuni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 5 anni e mezzo di carcere sono stati chiesti dal PM di Milano Luigi Orsi per Pierangelo D'Accò, il faccendere processato con rito abbreviato nell'ambito dell'inchiesta sulla bancarotta del San Raffaele. Il PM ha chiesto anche 3 anni per l'imprenditore Andrea Bezziccheri. L'FBI ha arrestato in tutto il mondo, compresa l'Italia, 36 cybercriminali. Il gruppo aveva messo in piedi una sorta di supermercato online dove vendeva numeri di carte di credito rubate. C'era anche il corrispondente italiano fra i 36 pirati informatici arrestati in 11 paesi dall'FBI, un'operazione messa a segno anche grazie agli agenti italiani, come spiega a Radio 24 Antonio Apruzzese, capo della Polizia delle Comunicazioni. Si è trattato dell'arresto di un cittadino pakistano che viveva a Milano. Nell'ambito di questa operazione internazionale coordinata dall'FBI su una banda molto agguerrita, molto, molto diffusa nel mondo, che gestiva fondamentalmente numeri di carte di credito rubati. Era un vero e proprio mercato di acquisto e di rifornimento di dati riservatissimi che venivano poi utilizzati per fare frodi in quantità industriale. Il gruppo aveva creato Cardershop, una sorta di negozio online dove solo gli utenti autorizzati potevano acquistare numeri di carta di credito per appena $1.50 l'uno. La Polizia delle Comunicazioni è stata protagonista ieri di un'altra operazione contro il cybercrime che ha portato all'arresto di 15 persone di una banda italo-rumena specializzata in phishing. Le email civetta che tentano di fare digitare agli utenti distratti numeri di carta di credito o credenziali per entrare nel proprio account bancario. Le persone arrestate erano riuscite a prelevare circa 2 milioni e mezzo di euro da Poste, CartaSì e altri circuiti bancari. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Autorità per l'Energia avvia un'indagine sui prezzi dell'elettricità del mercato libero. Nella relazione annuale, il presidente Guido Bortoni ha affermato che spesso i prezzi dell'elettricità sul mercato libero sono più alti di quelli del servizio di maggior tutela. L'indagine riguarderà anche le forniture di gas. E a proposito di gas, Bortoni ha denunciato che il prezzo per le famiglie in Italia è superiore rispetto al prezzo medio europeo, con scostamenti anche del 29% per le classi di consumo più alte. Il Consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena ha approvato il piano industriale 2012-2015 che prevede un ritorno all'utile a fine periodo, ma con una riduzione dei costi che dovrebbe portare al taglio di 400 filiali e una riduzione del personale di 4.600 persone. Un aumento di capitale da 1 miliardo che sarà sottoscritto da un nuovo socio. Questo è l'aspetto innovativo del nuovo piano industriale del Monte dei Paschi, un piano che contiene pesanti riduzioni dei costi. In 3 anni dovranno essere ridotti 4.600 dipendenti e la banca conta di risparmiare oltre 300 milioni dal personale, oltre ad altri circa 300 milioni dai costi operativi. Viene incorporata Banca Antonveneta e le altre entità legali della banca. Un piano che punta a riportare l'efficienza operativa della banca e un utile netto consolidato di circa 630 milioni. Gerardo Graziola di Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi la prima delle due semifinali, Spagna-Portogallo, il derby iberico. Allora ci racconta tutto qui accanto a me Carlo Genta. Siamo ormai alle battute finali. Eh sì, siamo alle partite più belle, più interessanti, Piera. Spagna-Portogallo, derby iberico come dicevi tu. C'è anche tanto classico, c'è tanto Barcellona-Real Madrid in questa partita con maglie molto mescolate. C'è Cristiano Ronaldo ovviamente che si porterà sulle spalle il suo Portogallo. Dall'altra parte molti madridisti, molti barcellonesi. Insomma, sarà una partita interessante, secondo me non così scontata, perché in gare secche anche la scintilla del talento di Ronaldo può dare fastidio ad una Spagna fin qui piuttosto brillante, piuttosto sicura di sé, però ancora senza quei picchi che l'avevano portata sul tetto d'Europa e del mondo. Quindi si comincia così con Spagna-Portogallo 20-45 per capire quale sarà la prima finalista di questo europeo. E poi domani tocca a noi. Domani tocca a noi a Varsavia contro la Germania. È una partita di cui anche Pirlo ha sottolineato ieri, i tedeschi hanno paura. Ormai moltissimi anni fa abbiamo instillato loro, ti ricordi quel famoso 4-3 che ha segnato la gioventù di molti italiani, compreso Prandelli. E da lì abbiamo messo loro addosso tanti dubbi. La Germania ha una tradizione sfavorevole nei grandi tornei contro l'Italia, ha paura di noi, si parla sui giornali tedeschi di vendetta, di regolamento di conti, perché siamo andati a strappargli un mondiale dal loro stadio, quello di Dortmund, 4 anni fa. Vediamo come si mette questa partita. La Germania fin qui ha fatto il solito cammino, senza tentennamenti, segnando molti gol, senza grandi problemi. Però è un'Italia che può dare fastidio ai tedeschi. Prandelli ha detto: non staremo ad aspettarli, li attaccheremo. E io credo che sarà una grande partita. Che dici, Carlo? Ce la facciamo? No, dai, non farmi fare pronostici. No, brutte figure poi. No, non farmi fare pronostici. Quello che ti posso dire è che faremo un gran tifo. Se poi segna Balotelli e non esulta, lo faremo noi tutti quanti insieme, no? Sicuramente. Grazie a Carlo Genta, staremo a vedere, speriamo bene. Intanto sicuramente fa caldo, ce ne siamo accorti, e potrebbe arrivare un'ondata di caldo ancora peggiore. Si chiama Caronte questa volta, ci racconta tutto il colonnello Mario Giuliacci. La punta del caldo sarà tra il 30 e il 2, quando sul 70% della penisola verranno superati i 34 gradi. Quali saranno le regioni più colpite in questi giorni? Cioè, tra il 30 e il 2, l'Emilia, il Trentino, l'Umbria, il Basso Veneto, la Lombardia e il famoso anticiclone nordafricano. Cioè, dal Nord Africa si allunga verso l'Italia. Essendo nordafricano, ovviamente, che tipo d'aria deve sospingere verso l'Italia? Aria che proviene direttamente dal Sahara, e quindi aria caldissima. Le temperature aumenteranno di 5-6 gradi su tutta l'Italia per l'arrivo di quest'aria più calda. A differenza dell'anticiclone invece delle Azzorre, perché quando arriva l'anticiclone delle Azzorre porta anche lui il bel tempo, ma porta invece fresche correnti atlantiche, per cui non si va al di là dei 30-31 gradi. Oggi, domani e dopodomani ancora saremo sotto il presidio gradevole dell'anticiclone delle Azzorre. Proseguono oggi gli incontri organizzati da Radio 24 nella sede del Piccolo Teatro di Milano in Via Rovello. Oggi pomeriggio alle 18 Paolo Rossi, il comico Paolo Rossi, legge Lolita, serata presentata dal nostro Daniele Biacchessi. Ed ora andiamo in uno dei luoghi più belli della Sicilia e dell'Italia per il Taormina Film Fest. Estate, stagione di poche uscite ma tanti lavori in corso per il cinema. E così al Taormina Film Fest una serie di appuntamenti con attori e registi alle prese con il set. Dopo la presentazione del prossimo film di Marco Risi, Cia Cia Cia, la commedia di Fausto Brizzi, tutta al femminile. Beh, io mi sono segnato i personaggi femminili più divertenti che ho conosciuto negli ultimi 40 anni. e li ho messi tutti nello stesso film. Quella che mi diverte di più, appunto, come diceva, è La mamma fatta da Loretta Goggi. No, mi sono divertito molto. Francesco Mandelli sarà la vittima designata, insomma, di questa famiglia di donne. Un'opera prima di Giorgia Farina, invece, per Capotondi, Gerini, Impacciatore, Amiche da morire, con un solo uomo, Vinicio Marchioni, che alle opere prime è affezionato. Questo sempre. Sempre nei cortometraggi, sempre nelle opere prime, sempre nei progetti che uno in fase di... quando ti danno le sceneggiature, la prima cosa che mi colpisce è la qualità, insomma. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taormina. Prima di chiudere, una notizia di agenzia sulla diplomazia che si sta svolgendo in queste ore alla vigilia del vertice europeo. Ebbene, si sta svolgendo una riunione straordinaria per teleconferenza dell'Eurogruppo per esaminare le domande di aiuti presentati da Spagna e Cipro. Lo confermano fonti comunitarie. La richiesta di intervento del Fondo Salva Stati per le banche spagnole verrà formalizzata, anche se non ci sono ancora le cifre esatte dell'aiuto richiesto. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Pietro Lacorte. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.